Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo, composto apposta per noi. Ogni settimana in queste storiacce ascolterete la cronaca rielaborata nella voce e nella penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Milano, Roma, Potenza. Liberamente ispirato alle indagini su foto e ricatti. Il Paralentus è l'insopportabile bar per nottambuli dove il fotografo dei VIP, Billy Sarasino, va a mettersi in mostra. Quella sera stava seduto a capotavola, di spalle alla porta. Insieme con lui c'erano tre ragazze, belle, rozze e tossiche. Due mezze seghe di calciatore che in tutto l'anno non avevano giocato più di 90 minuti, un ballerino invecchiato male, l'ultimo amante di Sarasino, e i tirapiedi di due presentatrici TV. Corrado Genito era un ex carabiniere, anche se il Paralentus era un bar dove nei suoi sogni avrebbe messo non malvolentieri una bomba al fosforo, entrò, si sedette al banco, ordinò un negroni e aspettò il momento giusto. Sapeva cosa fare, lo sapeva sempre, altrimenti la sua agenzia per la sicurezza avrebbe chiuso da anni. Invece è diventato un milionario cazzuto e malinconico. Si passò le mani tra i radi capelli, era il segnale per un quarantenne, più largo che alto, con un giubbotto di montone azzurro emerso da chissà quale svendita cinese. Si fece largo nel locale, spostando di peso un cameriere, si avvicinò al tavolo e prese per il collo Sarasino. «Ora ti ammazzo!» gridò. «Ti sei fatto i soldi sulla pelle di quella scema di mia sorella!» disse mollandogli una pappina in pieno naso. «La voilina voleva fare, e tu», aggiunse con emozione, «l'hai mandata a spacciare cocaina sugli yacht, a darsi via con i vecchi bavosi, e non l'hai mai pagata, e ora è giù botte e botte». Persino i tatuaggi del fotografo venivano oscurati dagli ematomi e dalle macchie di sangue che si allargavano sotto la camicia bianca slacciata e slabbrata. Genito aveva restituito il bicchiere ambrato ed era intervenuto. Aveva teso il braccio destro sparando all'uomo una botta in pieno ginocchio. Mentre il sangue bagnava copioso il parquet di noce, Genito aveva acciuffato il frastornato Sarasino ordinandogli «Portami via di qua, subito!». Il rumore di una sirena già risuonava nella via, mentre l'investigatore privato, sdraiato sul sedile posteriore della Cayenne del fotografo, rideva. Anche Sarasino rideva. «Vai a mille te, ma chi sei? Io ti faccio diventare qualcuno, ti va di essere lo Scarface italiano? O amici ovunque!» strillava al volante, pulendosi il sangue dal volto. «È stata una scena meravigliosa. Peccato non avere una cavolo di macchina, avrei fatto un sacco di soldi». «Non hai capito, Billy», disse Genito. «Che cosa?» «Non amo la popolarità», rispose. Si mise a sedere e con calma spiegò. «Tu hai un archivio segreto di file, foto e film e qualcuno mi ha incaricato di prenderlo. Lui in persona, capisci? So come fare. Le telecamere del tuo bar sono fuori uso da ieri. Sono il cliente che ti ha salvato e sono sulla tua auto. Nessuno mi conosce e posso continuare l'opera come voglio». Il primo proiettile esploso nel bar Paralentus era a salve. Il suo amico pugile aveva sparso sul parquet soltanto sugo di pomodoro. Ma il secondo era uno special a naso molle. Genito lo sparò contro il tettuccio del Cayenne, aprendo uno sguarcio nella lamiera. «Se vuoi vedere il tuo cervello ridotto così», disse a Sarasino, mostrando la canna nera. Il fotografo cominciò a tossire, non era abituato ai gas di scarico del revolver, e a piangere. Poi tutto andò nel migliore dei modi. «Misterioso ricovero in ospedale per il fotografo dei VIP», dicevano i titoloni delle riviste scandalistiche. Era stata una crisi di nervi. L'uomo che pensava di avere tanto potere, perché poteva ricattare i potenti, aveva incontrato il potere vero, quello che poteva permettersi di pagare a Genito 500.000 euro, di conservare i file con le foto in una banca svizzera, di mettere ogni cosa a tacere. Il ricatto poteva continuare, ma in mani migliori, mani antiche, mani italiane. Piero Colaprico, in libreria con La donna del campione, Rizzoli, 388 pagine, 18,50 euro.